sogno oggi sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo, non ti vengono verso il mare, e la fine di un amore. Io sogno nel mio sogno, vedo che grazie.